Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Antoni è il nuovo romanzo di Alessandra Sarchi pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. Questo è un romanzo sulla maternità, sui diversi modi di essere madre, una riflessione anche sui lati oscuri della maternità, maternità intesa come potere o come dittatura del corpo. La maternità vista sicuramente come creazione, quindi come dar vita, ma anche per esempio come rifiuto, un rifiuto da parte di una figlia che è in conflitto con la madre. La protagonista è Antonia, una donna di quasi 50 anni che gestisce un allevamento di capre da latte vicino Bologna. Lei irrompe nella scena del romanzo all'inizio soprattutto come madre di Anna, che è un'adolescente anoressica che la rifiuta. Poi più avanti nel romanzo Antonia viene anche definita attraverso un'altra maternità, una maternità biologica, perché lei è anche madre biologica di Jesse, un ragazzo americano di 26 anni che era nato dalla donazione appunto di un'ovocita che Antonia aveva fatto ad un'amica, Mirta. Allora, Alessandra, partiamo innanzitutto dal primo rapporto che sembra definire Antonia, cioè il rapporto con la figlia Anna. Che tipo di relazione hanno? Beh, è la relazione di una madre alle prese con una figlia adolescente, quindi in grande conflitto, in grande tensione per cercare una propria identità e come spesso purtroppo accade da qualche decennio a questa parte, molta di questa tensione, di questa dinamica anche di contrappositiva rispetto alla madre e rispetto ai genitori in generale, si manifesta con dei disagi alimentari, quindi con il rifiuto del cibo, nel caso di Anna, che diventa però anche una forma per allontanarsi dalla madre, perché in fondo è la madre che l'ha nutrita fino a quel momento, ed è anche un modo per forse per rifiutare il rapporto fusionale che hanno avuto fino a quel momento o comunque durante l'infanzia di Anna. C'è una frase molto bella che definisce il rapporto secondo me fra loro due. Tu a un certo punto scrivi: scomponi la madre, togliele il corpo, le braccia, il petto, insomma lo spazio fra il collo e la clavicola, vai avanti insomma con un elenco di cose che si potrebbero togliere a questa idea di corpo, e poi dici: se elimini parte dopo parte rimane l'idea della madre che ti sei costruita nel tempo, ti sei allontanata dal suo corpo e te ne rimarrà sempre nostalgia. Anna lo ha fatto, ha ridotto sua madre a un'idea da combattere. Ecco, a volte i rapporti fra madre e figlia possono essere così conflittuali che c'è una forma di rifiuto totale, proprio fisica. In tutti i tuoi romanzi, ma soprattutto in questo, c'è sempre presente l'idea di corpo. Anche qui la maternità è vista anche attraverso proprio la gravidanza fisica, la maternità come creazione di un altro essere fisico, come estrapolazione di qualcosa di sé in qualcosa di altro. Sì, sì, è vero, e nel momento in cui poi si cresce, si cerca di definirsi con un'altra identità, la madre è sicuramente il corpo da cui allontanarsi, a maggior ragione per una ragazza, per una donna, perché quello è un corpo identico al tuo, con il quale quindi l'identificazione è stata molto più facile, più semplice fin da piccola. E però nel momento dell'auto-individuazione è necessario questo distacco, e a volte prende una piega dolorosa, proprio perché per capire chi si è ci si deve staccare e ci si deve anche definire per contrapposizione, quindi in una maniera che spesso è conflittuale. Poi spesso queste cose rientrano, a volte invece rimangono definitive, c'è un distacco anche da questo corpo dentro il quale si è stati a lungo come feto, ma poi che ci ha accudito e che ci ha seguito, insomma, nella crescita, questo distacco avviene in una maniera definitiva quando si diventa a propria volta adulti. Ecco, ma perché nei tuoi romanzi, ricordo per esempio anche La notte alla mia voce, il corpo è così preponderante? Ma io penso che noi siamo corpo, come diceva il filosofo francese Merleau-Ponty, noi non abbiamo un corpo, perché non è un cappotto che possiamo mettere e dismettere a piacimento. Noi siamo corpo, cioè tutto ciò che noi esprimiamo è imprescindibile dal corpo che abitiamo, ma che siamo effettivamente. Siamo eredi di una tradizione di pensiero che da Cartesio in poi, ma forse anche prima, ha distinto in maniera molto netta la materia dalla psiche e dal pensiero. In realtà anche la psicologia moderna ci dice che non c'è questa distinzione, che le due cose vivono in simbiosi e che quindi forse la cosa più affascinante e più interessante è cercare di capire i punti di congiunzione, i punti di unione fra ciò che è psichico e ciò che è materiale. E forse anche questo è sicuramente uno dei motori del mio modo di narrare. Ecco, prima accennavamo alla maternità come forma di potere. Tu lo scrivi proprio chiaramente a un certo punto e dici: penso che essere madre ti fa sentire grande non solo perché hai generato una creatura che prima non esisteva, ma anche perché hai attraversato la morte, ne hai sentito la vicinanza. L'hai fatto non per te, ma a favore di un altro, e questo ti fa credere di avere dei diritti, di avere un potere. Lo senti quel potere, in effetti ce l'hai, almeno per un certo tempo. Io non lo volevo. Ecco, perché si fa un po' fatica a disegnare, a descrivere la maternità come forma di potere? Siamo un po' tutti figli di una cultura che vede la maternità in forma stereotipata, dolcezza, accoglienza e così via, e si fa più fatica ad ammettere che è anche una forma di potere. Si fa assolutamente fatica ad ammettere che lo sia, proprio perché la madre, come tutti i grandi luoghi comuni, è un luogo di potere, è un luogo in cui i poteri allungano le loro mani, e quindi è più facile confezionarne un'idea, come dire, inoffensiva. Quella appunto della madre accudente, della madre perfetta, no? Cioè questa idea di perfezione, peraltro associata al femminile materno, che è quanto di più lontano dalla realtà. Sappiamo benissimo che le madri sono imperfette. Un grande psicologo diceva che una madre tutt'al più può cercare di essere sufficientemente buona. Ecco, questo era quello che diceva Winnicott, no? Quindi la madre in realtà ha tutto un aspetto anche feroce, anche aggressivo, anche pauroso, anche oscuro, che difficilmente viene messo in luce e che però la letteratura ultimamente ha cercato di indagare in maniera molto interessante. Alcuni dei libri, secondo me, più interessanti che sono usciti indagano proprio questi aspetti oscuri della maternità, sottraendola quindi a una retorica, a dei luoghi comuni che sono appunto mistificanti. Ecco, senza fare troppo spoiler sul romanzo, ma tanto è scritto anche sulla quarta di copertina, a un certo punto, e l'abbiamo anche accennato, a un certo punto nella vita di Antonia comparirà Jesse, che ha 26 anni, è questo ragazzo nato dalla donazione di un ovulo che Antonia aveva fatto alla sua amica americana nel periodo in cui lei aveva vissuto in California molti anni prima, alla sua amica americana Mirta. Ecco, tu descrivi all'inizio, quando fai una serie di flashback poi sul passato di Antonia, a questo rapporto di amicizia fra Antonia e Mirta quasi come un innamoramento, perché forse molte amicizie nascono con una forma di innamoramento. Mirta è la donna che Antonia vorrebbe diventare, la donna che forse le ha insegnato la libertà, ma dopo che le ha fatto questo grande dono, Antonia decide di scomparire per sempre, sia dalla vita di Mirta che dalla vita di questo bambino che nascerà. Insomma, lei ne prova addirittura una vergogna. Perché vergogna? Beh, perché si rende conto all'improvviso di aver fatto un gesto che la travalica, che è più grande di lei e rispetto al quale non si sente assolutamente adeguata. Cioè, lei voleva essere autonoma, emancipata, generosa anche quanto la sua amica, E lo è, anzi lo è anche di più, perché le fa un dono incredibile, le permette di diventare madre a sua volta. Poi però si rende conto che l'aver dato una parte di sé affinché l'amica potesse avere una gravidanza comporta che nascerà un bambino, comporta che la vita della sua amica cambierà, e lei non è pronta ad accettare questo cambiamento. E come talvolta accade, le persone che segnano un momento di svolta nella nostra vita, poi non è detto che rimangano, cioè a volte queste persone scompaiono, ce ne allontaniamo. Anche se sono state fondamentali. Esatto, esatto. Ecco, sicuramente questo è un romanzo sulla maternità, l'abbiamo detto, però viene anche toccato il tema dell'anoressia, anche qui non in modo convenzionale e stereotipato. È molto interessante quando, per esempio, tu descrivi più che altro il rapporto di, diciamo, amicizia che nasce fra Antonia e Alice e Sara, che sono le mamme di altre due ragazzine anoressiche che si incontrano ad un gruppo di sostegno, e fai dire loro a un certo punto che loro hanno bisogno di parlare di sé, non solo delle loro figlie e del problema delle loro figlie, loro hanno un disperato bisogno di parlare di sé. Poi Antonia appunto non ci riesce per tanto tempo, ma che cos'è questo bisogno di parlare di sé? Beh, forse è il bisogno di essere non soltanto una mamma, ma anche una donna con una propria vita, con un proprio vissuto che non può essere esaurito solo dal ruolo di madre. Cioè, appunto, sempre nella grande retorica che circonda non solo l'essere madre, ma l'essere genitori in generale in questo momento, su cui si fa un gran parlare, forse proprio perché si è sempre meno genitori, cioè si fanno sempre meno figli, e quindi diventa quasi un fatto eccezionale. È come se appunto l'essere un genitore ti esaurisse come persona, ma no. È solo una delle tante cose che una persona può fare, e questo desiderio di parlare di sé è anche un modo per riappropriarsi di sé. Non si può essere, io credo, un buon genitore se non si ha una vita propria, una vita interiore, una vita di relazione, e questo loro parlarsi, questo loro rispecchiarsi delle tre amiche che si incontrano è una forma di riappropriazione delle loro identità, di una possibilità di apertura diversa che non... lo spazio asfittico anche che può diventare la famiglia nel momento in cui ci sono problemi così, così pesanti. Il romanzo si intitola Il dono di Antonia. Si capisce naturalmente che il dono è il dono appunto di questo ovocita. Il dono è sempre un atto di generosità o c'è anche una forma di egoismo? Senza svelare adesso le ragioni che hanno portato Antonia a compiere questo gesto di cui lei stessa a un certo punto non si capacita, perché è un dono che crea alla fine un conflitto interiore. Il dono è sempre un, come dire, ha una sua ambiguità intrinseca, nel senso che noi doniamo per fare piacere alla persona alla quale doniamo, ma in quel dono noi mettiamo anche una proiezione di noi stessi, quindi c'è sicuramente una radice egoistica. D'altronde c'è anche nel fare figli una radice egoistica, nel senso che tu poi li vuoi in una certa maniera, ti immagini, speri che diventino in un certo modo, e magari poi invece diventano tutt'altro, quindi una parte di proiettiva c'è sempre nel donare, anche perché poi il dono comunque sigilla una forma di patto, di reciprocità, quindi è una forma di vincolo sostanzialmente. Grazie ad Alessandra Sarchi, ora in libreria con Il dono di Antonia, pubblicato da Einaudi. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Del volte mi m'accordo qui Nadali, quando ero un bambino. Pavana, paesino toscano al confine con l'Emilia, luogo dell'anima per Francesco Guccini, che torna nelle canzoni come In Natale a Pavana e nei libri come Tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, pubblicato da Giunti. Un romanzo pieno di malinconia per un luogo che non è più quello di un tempo. È cambiato il paesaggio, sono cambiati gli stili di vita, non ci sono più le persone che hanno accompagnato l'infanzia. E così Guccini dedica alle cose e alle persone di Pavana un ritratto struggente, scritto in una lingua che anche un mix fra italiano e dialetto. Pavana era anche al centro del primo libro di Guccini, Croniche epafaniche dell'89. Che cosa hai cambiato in questi 30 anni? Anzitutto che ho 30 anni in più io, quindi sono 30 anni di bene o male esperienze, letture, combinazioni della vita, eccetera. Secondo che anche qualche giorno fa è morto un altro pavanese, che è il quarto in pochi mesi, e non c'è più il tavolo per giocare a carte, cioè non si forma più perché sono morti tutti, i giovani non ci sono. E questo è un po' quello che racconto nel libro, cioè che è un paese al tramonto, un paese dove solo la gente scompare e non c'è ricambio. Infatti questo romanzo si conclude con una sorta di Spoon River, insomma il ricordo di tante persone a lei care che sono scomparse. Oltre naturalmente agli affetti e alle persone, sono cambiate anche le cose, sono scomparse anche molte cose, dagli animali a elementi del paesaggio, ad abitudini quotidiane. Qual è la cosa che rimpiange di più? No, rimpiangere, c'è malinconia. Non è rimpianto, Dio, forse un po' di rimpianto sì, ma è scomparsa una civiltà, una cultura, la cultura contadina montanara che non esiste più, è scomparsa una lingua, quindi attraverso la lingua è fondamentale, non solo serve a comunicare, ma la lingua sottende tutta una serie di rapporti, di modi di vivere, modi di essere. Non si può rimpiangere un mondo in cui si viveva peggio di quanto non viviamo adesso che abbiamo tutti quanti l'acqua corrente in casa, una volta bisogna andare alla fontana o al pozzo, abbiamo il riscaldamento, tutti quanti abbiamo l'automobile, il telefonino, la televisione, tutte la lavastoviglie, la lavatrice, quindi un mondo completamente diverso. E in bene certe cose, in male certe altre. La scomparsa di una lingua vuol dire adoperare una lingua che non è più vera, non è più vivace, non dice più nulla. Infatti lei ha deciso di scrivere questo romanzo utilizzando anche delle parole del pavanese, anche delle strutture grammaticali, diciamo così, che arrivano dal dialetto. Che rapporto ha lei con quella lingua? Lo conosco ma non l'ho mai parlato. Io conosco anche il modenese di mia madre e non l'ho mai parlato. Lo parlo, lo so parlare, ma non mi è mai capitato di parlarlo. Qualche frase, qualche cosa. Adesso se mi viene in mente una frase in dialetto la dico preferibilmente in modenese perché è la lingua materna prevale sempre sulla lingua paterna. Però il pavanese fino a qualche anno, ormai sono passati, diciamo lo parlano solo i vecchi, adesso i vecchi siamo noi e non abbiamo mai parlato, però lo conosco, tant'è vero che per divertimento agli inizi del 2000 ho tradotto in 3 anni successivi 3 commedie di Plauto dal ladino pavanese, 3 commedie che sono state rappresentate da una banda di sciagurati, molti dei quali peraltro non ci sono più, e quindi lo conosco, poi l'ho approfondito, ho fatto anche un dizionario nel 98. Fra le varie cose che lei ricorda in questo romanzo c'è un oggetto, una cosa che mi ha colpito particolarmente, è l'osso conditoio, cioè quell'osso che veniva anche prestato da una famiglia all'altra. Mi è piaciuto perché secondo me è proprio il simbolo di una solidarietà che forse è in parte perduta. Ci vuole raccontare che cos'era per lei quell'osso conditoio? Colpisce molto l'osso conditoio. Io onestamente non l'ho mai visto prestare. I miei nonni usavano l'osso conditoio per insaporire la minestra di fagioli. E ho mangiato quello che restava, è l'osso del prosciutto. Quando il prosciutto arrivava alla fine, diciamo, del proprio compito, fetta dopo fetta, rimaneva l'osso e veniva messo nella minestra di fagioli per insaporirlo. Mi dicono però che è vero che se le famiglie se lo prestavano per insaporire eventualmente altre minestre di fagioli, finché poi veniva completamente, chiedo scusa per la voce che ogni tanto mi va via. Pensai che ho fatto anche il cantante, ma questo non c'entra. Che serviva a insaporire altre minestre di fagioli. L'ultima volta che l'ho mangiato, con mia grande sorpresa, è stato in un agriturismo che adesso non esiste più. Come molte cose aprono e poi chiudono. Però è buono, insomma, almeno. A chi piace, è buono. Senta, sempre a proposito di cibo, in questo libro si ricordano per esempio i tortellini che si mangiavano all'epoca solo a Natale, mentre adesso si possono mangiare praticamente sempre, insomma. Ecco, che cosa rappresentavano quei cibi particolari, quelle tradizioni, quelle occasioni per stare insieme, per festeggiare? Insomma, erano veramente delle occasioni speciali in cui, tra l'altro, lei racconta, voi bambini potevate fare un po' quello che volevate. Potevamo fare quello che volevamo fino a un certo punto. Vabbè, eravate molto liberi, su. Momento, fino a un certo punto. I bambini di una volta non erano come i bambini da adesso, che per Natale ricevono delle valanghe di doni. Prima, proprio alla partenza, ricordavo che per l'Epifania la bufagna a Pavana, perché dunque Babbo Natale non esisteva. C'era una calza contenente un paio di mandarini, che era un frutto rarissimo, quindi solo per Natale, qualche arachide, e io particolarmente fortunato perché trovavo un panforte Sapori di Siena, che era lo stesso panforte che una mia zia vendeva in negozio. Io mi chiedevo che se la Befana si servisse da mia zia per acquistare lo stesso panforte, perché noi eravamo così, poi doni niente, no, proprio doni in assoluto, non ho mai ricevuti nella mia vita. Una volta mio padre, preso da un incredibile, ma non credo sia andato così, mi regalò un libro senza famiglia di un certo Malo, se non sbaglio, che è quello di Remy, che ha fatto, che è una cosa di una tristezza allucinante. E così, che è stato l'unico regalo che mi ha fatto mio padre nella sua vita. Mia madre non mi ha mai regalato niente. Quindi bambini diversi eravamo. Ecco, in questo romanzo lei racconta anche di come è cambiato il paesaggio geografico. Il fiume c'è, rimane sempre dov'è, insomma, però è cambiata la fauna, sono cambiate le piante, e in quel fiume ci sono molti ricordi legati per esempio alle ragazze. C'erano le ragazze del luogo che erano molto, diciamo, riservate, quelle che venivano da fuori magari un po' più disinvolte, e poi c'erano le francesi. Insomma, che ricordo c'è di quelle ragazze? Ragazze del luogo mai. Mai? Loro... Le ragazze del luogo non si vedevano. Le aborigene proprio non andavano al fiume, c'erano le villeggianti. Le villeggianti potevano essere bolognesi o toscane. Le toscane erano molto più pudiche, erano molto più... Cioè adesso, per usare parole, ma è meglio che non dica niente. Però non c'era niente da fare, ma non dico arrivare al dunque, dico anche un bacio. E era molto duro, molto difficile. Già le bolognesi erano più sladinate, come si dice. Le francesi che venivano da... Soprattutto c'erano delle francesi che venivano da Parigi. Erano con i due pezzi, che era una cosa straordinaria, sulle due pezzi allora. E erano tutta una serie di gradualità diverse. Quindi. E una volta ricordo, andando, perché si andava a piedi, da Pavana giù alla Venturina, c'era un chilometro e mezzo, passai con due ragazze che parlano francese. Mi precipitai dagli amici: guardate, sono due ragazze che parlano francese, eccetera. Tornammo indietro, non le ho più viste, sono scomparse misteriosamente. Forse era un miraggio, apparizio. Legato sempre alle donne, c'erano poi le allegre osteriole. Che cosa succedeva in queste allegre osteriole? Cosa succedesse? Non si sa. Posso immaginarlo, ma non lo so, perché non le ho mai frequentate. Ero troppo giovane. Posso facilmente immaginarlo. Ce n'era una particolarmente, che c'erano delle file di camion che si fermavano per forse del buon vino, per assaggiare questa specialità del luogo, insomma. Una, due sono morte sicuramente. Una l'ho rivista. Rivista no, me l'hanno detto. Faceva la domestica presso una nobile famiglia di Cremona. quell'altra l'ho incontrata, che era più carina, a un matrimonio di una sua parente, viveva in Inghilterra, aveva sposato un operaio inglese, poi non ne so più niente. Fra le varie immagini di questo romanzo che mi hanno colpito c'è quella dei castagneti che sono stati completamente abbandonati. Lei dice non c'è più nessuno che si occupa. È quasi un'immagine simbolica del lasciare andare le cose e non apprezzarle. Per voi le castagne all'epoca erano un elemento prezioso, ma a volte vi arrivava anche a dar la nausea, insomma. Castagne ovunque. Allora, la castagna era l'80% del cibo dei montanari. Sì, in mille modi diversi. Si mangiavano fresche, si seccavano, si macinavano. Con la farina di castagne si faceva un mucchio di roba. Se il Signore Dio ha dato una dose di castagne a ciascuno di noi, io la mia dose l'ho già avuta. È superata abbondantemente. La mia dose l'ho già avuta abbondantemente, quindi non voglio più sentire parlare. Adesso ogni tanto in una trattoria dice abbiamo le tagliatelle di carine di castagne, dico grazie, ve le tenete. Anche no. E buonasera. Però era fondamentale. Però ovviamente è passata la miseria di un tempo, se Dio vuole. E quindi le castagne non le... perché è fatica. È un lavoro tenere dietro ai castagneti, un lavoro comincia in primavera e finisce la primavera successiva. E quindi un lavoro molto duro. Figuriamoci se adesso si pulisce il castagneto. Un'ultima domanda. Lei dice spesso che ha scritto questo romanzo con un senso di malinconia e non di nostalgia. Se avesse una bacchetta magica e potesse riavere una cosa, un oggetto, non parlo naturalmente di persone, ma un oggetto, una situazione, un'ambientazione, che cosa sceglierebbe? Beh, anzitutto 60 anni in meno, o anche 70, questo sarebbe fondamentale. Però rivivere il mulino dei miei nonni quando funzionava, quando era pieno di gente, si macinava e... quello sì, con i miei nonni lì, con tutti i miei nonni ancora al mondo. Questo mi piacerebbe sul serio. E questo era Francesco Guccini, autore di Tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, pubblicato da Giunti. E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it. Se volete potete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook con la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri /Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo IL. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.